Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. Iniziamo questa diretta in occasione dell'uscita del lavoro, il libro del nostro direttore Alessandro Canella. Sono con Rachele Copparoni e ovviamente il protagonista. Rachele, siamo un po' emozionati anche per eseguire questa conversazione e quindi lascio a te l'incipit, del resto parliamo di libri appunto, per portare questa intervista. Cosa chiedi ad Alessandro per iniziare così in partenza? Sono un po' in difficoltà effettivamente, anch'io un po' emozionata per questa intervista al nostro caro direttore. Innanzitutto volevo dire, il libro esce il 4 aprile, si chiama Onde Ribelli, la radio come trasformazione, per Armillaria Edizioni, così diamo un po' di informazioni iniziali. E poi innanzitutto, Ale, di che cosa parla questo libro, ti chiederei. Ma innanzitutto smettetela di fingere emozione, che ci siamo visti fino a 3 secondi fa. È un libro che, come si può capire, parla di radio. Del resto questo faccio ormai da 25 anni e questo riempie le mie giornate, ma parla di radio un po' diverse da quelle che conosciamo, che fanno intrattenimento e basta. Parla di soprattutto di applicazioni sociali della radiofonia, perché in questi anni qui a Radio Città Fujiko, già ancora quando si chiamava Radio Città 103, ho visto che la radio è sempre stata il mezzo di informazione più utilizzato in applicazioni sociali. Non è semplicemente un medium, un mezzo di informazione, un mezzo di comunicazione di massa, ma può essere utilizzato anche come strumento di interazione sociale, spesso con categorie di persone oppresse, svantaggiate, e quindi sono andato a indagare questo aspetto. Come hai strutturato il lavoro? Capitoli, narrazione, come lo possiamo definire dal punto di vista meramente letterario? Allora, è un saggio, senza dubbio. Diciamo che si può dividere in 3 parti più o meno. La prima parte è un'introduzione storica sulla radio fin dal tempo della sua invenzione, quindi una cosa di cui mi sono accorto è che già dai tempi degli esperimenti di Marconi, ma anche di quelli di Tesla e di altri studiosi, scienziati dell'epoca, la radio è il frutto di una contesa. Infatti, ad esempio, Marconi e Tesla si sono contesi l'invenzione anche con una causa legale che ha vinto Guglielmo Marconi, come sappiamo. E ho pensato, mi si è accesa un po' una lampadina vedendo che questa contesa, questa disputa, questa tensione ha attraversato un po' tutta la storia della radio in diverse fasi, e quindi non è solo una tensione, una contesa per i diritti del brevetto dello strumento radiofonico, ma anche ad esempio prima radio che inizia a trasmettere al mondo è la BBC nel 1922, mentre quest'anno è il centenario della prima trasmissione radiofonica italiana durante il fascismo a ottobre. Anche durante la Seconda Guerra Mondiale la radio era uno strumento proprio utilizzato in guerra per le informazioni. Pensiamo a Radio Londra, pensiamo a anche quello che fece il fascismo, che era tentare di oscurare le radio degli antifascisti affinché la popolazione non avesse informazioni difformi rispetto a quelle appunto che voleva trasmettere il regime. Attraverso la radio Hitler salì al potere in Germania. Questo specificatamente non lo scrivo nel libro, però insomma racconto un po' quella che gli storici hanno definito la guerra delle onde, per arrivare poi invece a una seconda fase, diciamo dopo la liberazione del 25 aprile e ancora un po' più avanti, la contesa sul monopolio, perché appunto la radio, anche se non c'era più una dittatura, rimaneva monopolio dello Stato, lo è stata fino al 1975, quando poi sono esplose le radio libere. Racconto ovviamente anche di Radio Alice, ma poi arrivo anche ai giorni nostri. There's a thin line between being well and being ill. That's what Julia told. I'm falling now, I'm falling. La radio non è come il cinema, che richiede il concentramento delle persone in un solo luogo, facile da controllare. Non è nemmeno un giornale, che necessita di tempo, costose rotative e soprattutto è una prova che può incriminare. La radio è volatile, effimera ed efficace al tempo stesso. È difficile, quasi impossibile incatenarla. La radio è l'idea stessa di libertà che si manifesta senza tuttavia materializzarsi fisicamente. Una parte di introduzione per il lavoro Onde Ribelli e, come ha anticipato Alessandro, arriviamo ai giorni nostri. E dunque questa è la prima parte di introduzione della radio, come dire, serve anche a far vedere come ci sia proprio una contesa su questo mezzo di comunicazione che non si è mai sbilanciato a favore o del potere o della libertà. È sempre stata una contesa che appunto è andata avanti. Poi appunto c'è la seconda parte del libro, inizio già a raccontare esperienze del presente o del recente passato, cioè, come dire, una nuova forma di radio pirata, diciamo così, quelle in AM nate nei centri sociali come XM24, come centri sociali di Firenze che hanno portato a Radio Wombat o al centro sociale Buridda di Genova che ha portato a Radiogramma. E racconto anche un po' quelle che sono le radio di movimento, quindi Radio Onda d'Urto, Radio Onda Rossa, insomma, diciamo l'aspetto più politico dell'utilizzo della radiofonia. Mentre la terza parte, che è quella un po' più cospicua, racconto proprio di esperienze che possono essere o intere radio, come ad esempio Radio Fragola di Trieste, che lavora con le persone seguite dai servizi di salute mentale, o appunto singoli progetti come ad esempio Radio Ghetto, che si svolge in una baraccopoli dove i migranti vanno a raccogliere i pomodori in provincia di Foggia, o le radio in carcere. In questo caso abbiamo ad esempio anche in onda da noi Liberi Dentro Eduradio, ma anche Mezz'ora d'Aria. Abbiamo anche altre applicazioni con ad esempio il Senza Fissa Dimora, appunto la radio dal punto di vista delle questioni di genere, quindi i primi esperimenti femministi alla radio, eccetera eccetera, le radio antimafia. Insomma, vado a raccontare diverse esperienze senza la pretesa di essere enciclopedico, perché sarebbero tante e insomma la ricerca sarebbe stata infinita. Quello che voglio dimostrare è che la radio per le categorie oppresse è un medium molto diverso dagli altri, per varie ragioni. Se volete ve le dico. Certo, siamo qui apposta. Allora, voglio sapere anche quanto tempo hai impiegato per un lavoro così... Allora, ci ho messo 4 anni a scriverlo, perché lo facevo nei ritagli di tempo, ho cominciato prima della pandemia, diciamo. Molte esperienze le conoscevo già perché le avevo incontrate con il mio lavoro, altre le ho scoperte appunto facendo delle ricerche anche su internet, andando negli archivi a leggere libri che parlavano di radio e cercavo quelle che mi interessavano di più. La radio si presta particolarmente per diversi motivi. Ad esempio, un capitoletto del libro parla della radio nelle catastrofi naturali. Ad esempio, nel terremoto del Friuli, se non ci fosse stata la radio, molte più persone sarebbero morte perché non ci sarebbero stati soccorsi, perché la radio è, come dire, molto più agile e snella rispetto a un giornale che esce il giorno dopo, quindi se ti devi informare in tempo reale non puoi farlo, ma anche rispetto alla televisione. Se ti crolla tutto intorno perché c'è un terremoto, non puoi stare davanti a una televisione ad ascoltare. E poi se salta la luce, la radio, ci sono dispositivi con le pile che si può essere ascoltata. Quindi proprio dal punto di vista tecnico è un mezzo molto più agile rispetto ad altri mezzi di comunicazione, che quindi permette di avere una maggiore versatilità. E poi ci sono anche gli aspetti, diciamo così, se vogliamo, psicologici e sociali. Una persona senza tetto, una persona senza dimora o una persona migrante, se la incontriamo per strada e vediamo ad esempio com'è vestita o di che colore ha la pelle, volenti o nolenti, in noi scatta un pregiudizio su quella persona. Vediamo che, ad esempio, ha la pelle più scura e quindi, come dire, nella nostra società un po' razzista ci può scattare un'immagine, appunto, associarla a certe cose che in realtà non sono vere. Lo stesso discorso con una persona magari che vive in strada e quindi è vestita male, è sporca. Beh, tutta questa dimensione dell'immagine che si porta dietro uno stigma sociale, con la radio non c'è, perché quello che ascoltiamo è semplicemente una voce. E quindi potrebbe essere la voce di Gino, Pino, di un migrante, di un senza tetto, ma noi non lo sappiamo, perché, e quindi ci concentriamo sui contenuti e quindi quello che quelle persone hanno da dire. Quindi non sono più una categoria sociale marginalizzata, ma sono persone come tutte noi, che hanno passioni, interessi, virtù, fallimenti come tutti noi. Solo usciamo dall'aspetto, ma giusto 30 secondi per Onde Ribelli, il contenuto, aggiungo la prefazione di Anna Uras, sentiremo anche le date di presentazione e parliamo di aspetto letterario, e lo dico con una malcelatissima invidia, Alessandro Canella scrive divinamente, cioè esco dal contenuto, mi porto un attimo da redattore del Voltiamo Pagina e soprattutto da lettore accanito. Alessandro scrive veramente molto molto bene. E in quest'ultima parte, oltre le date, insomma, i momenti per quanto riguarda le presentazioni di Onde Ribelli, in questa parte un argomento al quale sono molto, tutti gli argomenti ovviamente, questo però non è così immediato fare radio. Per fare radio uno pensa, alzi il microfono e inizi a parlare. No, c'è un lavoro collettivo, quindi persone che vengono marginalizzate fanno proprio la redazione prima, quindi iniziano a lavorare insieme e a, come dire, intanto misurarsi su cosa vuol dire lavorare insieme, quindi stringere reti, relazioni. Se tu finisci in strada spesso perché hai finito, cioè hai perso i legami sociali che ti tenevano ancorati alla società, e quindi pian pianino ricostruisci, poi ti puoi mettere alla prova. Però è diverso rispetto a farlo davanti a un palco con persone che ti osservano e ti guardano e ti giudicano. Lì non ci sono, e quindi puoi cimentarti e puoi, come dire, riscoprire delle tue caratteristiche personali che ti fanno riacquisire autostima e permetterti anche di liberarti dall'oppressione, in parte ovviamente non è solo la radio che ti opprime. Ecco, da quello che ci racconti mi sembra che hai utilizzato un po' uno sguardo, una chiave di lettura collettiva per raccontare la storia della radio italiana, in questo caso soprattutto, no? Quindi un po' il filo rosso che unisce tutte queste storie è questa. Sì, un certo tipo di radio ovviamente, perché non si parla di radio DJ, non si parla di RTL, non si parla di 105, si parla di un modo diverso di fare radiofonia che comunque resiste, Magari era più diffuso negli anni 70, quando si ruppe il monopolio appunto della RAI, però continua a resistere e la radio è ancora oggi utilizzata molto per queste applicazioni sociali, molto più, e questa è la tesi di fondo del libro, di altri mezzi di comunicazione, proprio per le caratteristiche che dicevo. Sarai in presentazione ufficiale per l'uscita del libro, ci puoi dare qualche dettaglio? Allora sì, ce ne sono già su Bologna diverse, una è il venerdì 5 aprile alle 19.30 a Camere d'Aria in via Guelfa, all'interno di una 3 giorni che si intitola Onde Riflesse, sono diciamo le radioline in AM, le radioline di movimento dei centri sociali che si ritrovano e appunto condividono anche i saperi, quindi si pinge per la collaborazione più che la competizione, come spesso avviene anche nel mercato editoriale italiano. Sarò lì a presentarlo alle 19.30. Quella successiva sarà il 18 di aprile, però a San Giorgio di Piano alle 21 in biblioteca Luigi Arbizzani, e il 21 di aprile sarò a Saint Jordi, questo festival delle librerie indipendenti chiamato dagli amici della confraternita dell'Uva, sarò alle 19.30 sempre a Porta Pratello in via Pietralatta 58. Quindi a tutte e a tutti non solo buon ascolto ma buona lettura, Rachele. Assolutamente, volevo solo aggiungere un'ultima cosa perché è una bella scelta fatta anche con la casa editrice che appunto con cui ha lavorato, una scelta politica, una scelta anche sostenibile, riguarda le copie che sono state stampate, perché diciamo c'è stato un inghippo, esatto. Sì, no, è successo che la tipografia a cui la mia casa editrice Armillaria si è rivolta ha fatto dei piccoli errori di stampa e quindi ad esempio non tutte le pagine di tutte le copie del libro sono perfettamente dritte, sono comunque perfettamente leggibili, certo, ma hanno dei piccoli difetti. Allora la scelta era quella di buttare al macero un migliaio, perché questa è la prima tiratura, di copie, quindi di carta, di inchiostro, insomma anche in tempi di crisi climatica e di insomma questioni anche ambientali ci sembrava brutto farlo, quindi d'accordo con la casa editrice abbiamo deciso di metterli, cioè di venderli comunque, proprio per una scelta etica ambientale. E c'è un timbro sopra che dice una cosa tipo stampato male ma si legge bene, e quindi a sottolineare questa cosa. Sì, altrimenti sarebbero stati veramente migliaia e buttati. Migliaia di fogli buttati. Bene, grazie. Grazie. Grazie a voi. Sera, Camere d'Aria, ore 19.30, via Guelfa, presentazione del lavoro Onde Ribelli, la radio come trasformazione. Alessandro Canella ne è l'autore e troviamo la casa editrice Armillaria nella collana I Cardinali. Oltre che l'attenzione, sì, c'è un'altra attenzione che volevo, sapete, io sono quello un po' più effimero, quindi ho un'attenzione anche per l'estetica, ha un'estetica, ha un formato, si dice roba cenna, roba fenna, sì, è un formato tabloid bellissimo, quindi vi invito alla presentazione di Onde Ribelli, vi invito a colazione per quanto riguarda il Breakfast Club lunedì prossimo, vi auguro un buonissimo weekend, abbiamo alle 11.30 al Jazz Live con il Torrione, anche con Crossroad per degli incontri che saranno nel weekend in provincia nella nostra città. Grazie per aver fatto colazione con Radio Città Fujiko, dal vostro William Piana un caloroso abbraccio, appuntamento a lunedì e ribadisco, un bel weekend di primavera a tutte e a tutti. Ciao, buon ascolto!